atteggiamenti nei confronti della parola di Dio. Uno dei più grandi doni fatti all'uomo dal suo creatore è certamente la sua parola, cioè la Bibbia. Benché essa sia santa, giusta, buona, uno, l'uomo, nonostante le buone capacità donategli da Dio, due, riesce a farne uno strumento malvagio con l'inevitabile conseguenza che questa parola lo giudicherà nell'ultimo giorno. 3. Il credente che ha il cuore unito al timore di Dio, 4, cercherà invece con pura coscienza di usare rettamente la parola di verità, 5, affinché essa possa illuminare il suo cuore e coloro che l'ascoltano. Desidero a questo proposito considerare alcuni usi sbagliati che si fanno della santa parola di Dio, tenendo presente che, purtroppo, in questi errori cadono non solo i non credenti, ma anche i figli di Dio non avveduti. La parola di Dio può quindi essere falsificata, distorta, disprezzata, annullata, rifiutata, rigettata, trascurata, dimenticata, non creduta. Esaminiamo ora ogni punto. Falsificantico testamento A. 2 Corinzi 4:2. Abbiamo rinunciato alle cose nascoste e vergognose, non procedendo con astuzia né falsificando la parola di Dio. Il cristianesimo, è stato detto più volte, è una rivelazione, non un'evoluzione del pensiero dell'uomo. Perché questo, se non è illuminato dallo Spirito, lo considera sbagliato secondo quanto è scritto. Ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle che camminava per una via non buona, seguendo i propri pensieri. 6. L'uomo falsifica la parola di Dio ogni volta che elabora le proprie idee e i propri schemi fino a portarli ad una superficiale armonia con la Bibbia, per poi dimenticare il tutto parola del Signore. 7. Non è improbabile che quando Paolo disse «Noi non siamo come quelli che adulterano, falsificano la parola di Dio», ma parliamo mossi da sincerità. 8. Tenesse presente quando Dio affermava al tempo del profeta Geremia, come potete voi dire, noi siamo savi e la legge dell'Eterno è con noi. Sì, certo, ma la penna bugiarda degli scribi ne ha falsato il senso. 9. Gli scribi, che erano gli interpreti ufficiali della legge, la usavano per dire ciò che volevano, per essere poi ipocritamente in regola. L'atteggiamento giusto da tenere davanti alla parola di Dio non è tanto quello di trovare in essa ciò che si vuole, ma sforzarsi di volere ciò che essa dice. Distorta. 2 Pietro 3:16. Nelle epistole sono alcune cose difficili a capire che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Non a caso quelli che torcono le scritture sono gli uomini ignoranti e instabili, cioè coloro il cui intelletto non è illuminato dallo Spirito e il cui fondamento non è nella roccia, cioè in Gesù Cristo. Si torce la scrittura ogni qualvolta la si spiega, senza tener presente i passi contraddittori. Così, per intendere bene la scrittura, scrive Pascal, ci vuole un senso nel quale tutti i passi contraddittori si accordino. 10. Se non si usa questa regola si cade nell'eresia. Per esempio, una verità fondamentale della scrittura è che Dio è onnipotente. Con questo non si può dire che Dio può tutto, perché egli, per esempio, non può salvare l'uomo se questo non lo vuole. Quindi l'onnipotenza di Dio va spiegata tenendo presente anche gli altri suoi attributi, quali giustizia, santità, amore. Agostino commentava a riguardo, Dio non può morire, non può ingannarsi, egli non può far questo. Anzi, se lo potesse, sarebbe minore il suo potere. E giusto quindi chiamarlo onnipotente, sebbene non possa né morire, né ingannarsi. Il Dio infatti è onnipotente perché fa quello che vuole, non perché subisce quello che vuole. Senza dubbio non sarebbe più onnipotente se dovesse sopportare qualche cosa contro la sua volontà. Non può quindi fare certe cose proprio perché è onnipotente. 11. Disprezzantico testamento A. Proverbi 13:13. Chi sprezza la parola si costituisce di fronte ad essa debitore. Disprezzare vuol dire ritenere di nessun valore una cosa o una persona. Quindi si disprezza la parola quando non le si dà l'autorità che deve essere nella nostra vita. Purtroppo è vero che nelle cose comuni della vita cristiana alcuni fra coloro che difendono il nome di Cristo agiscono come se vi fossero certe faccende che sono di assoluta competenza dell'uomo per le quali non c'è né bisogno di pregare né di preoccuparsi di Dio. Dio invece è in tutti i compartimenti della vita, non ve ne è nessuno, nemmeno fra quelli che ci sono più familiari, da cui Dio si assente. Tutto quello che facciamo dobbiamo farlo in Dio e con l'aiuto di Dio. 12. La rovina della testimonianza cristiana non deriva dai grandi negatori, ma da tutti coloro che non negano ma che non vivono. 13. Il messaggio divino, ha scritto G.N. Artini, che già in sé suona pazzia per l'uomo nel suo stato naturale, diventa pressoché incomprensibile, meno e perciò inaccettabile, allorché i cristiani che lo proclamano non sono dentro di esso. Un cristiano che è tale solo di nome è un'impostura infernale, peggiore del peggior delitto che si possa mandare ad effetto, perché dà un'idea sbagliata di ciò che è la sola verità in materia di salvezza. Esso fornisce la formazione di corpi antifede nella regione della volontà. E così la salvezza divina, di cui l'uomo ha bisogno quanto, e più, del pane per vivere, viene ad essere ignorata, incompresa e perciò sempre respinta. Questi pensieri ci coinvolgono e ci sconvolgono. 14. Annullantico testamento a Matteo 15. 6. Avete annullata la parola di Dio a cagion della vostra tradizione. Secondo Gesù, diventa tradizione tutto quello che, pur iniziando da un fondamento biblico, si allontana dallo spirito della Scrittura. In questo modo la tradizione, annullando e spodestando la Scrittura, diventa l'autorità in materia di fede e di condotta. All'uomo, afferma Leon Morris, piace costruirsi la religione, tradizione, crea i suoi miti e le sue cerimonie, elabora il suo modo di vita, si manipola un Dio su misura, tutto in nome della religione. Esteriormente può essere così pio da ingannare il suo prossimo e interiormente così convinto di essere nel giusto da ingannare se stesso. La gran facilità con cui può essere religioso lo fa percorrere a grandi passi ed allegramente la strada che lo porta lontano dalla fede. 15. Continua poi dicendo: ciò che trovo deprimente è il fatto che tanti, che si professano e si chiamano cristiani, danno così poca attenzione alle affermazioni della rivelazione e così tanta alle dichiarazioni degli uomini moderni. 16. Rifiuta Antico Testamento a Ebrei mezzogiorno e 25, guardate di non rifiutare colui che parla. Questo atteggiamento è decisamente negativo nei confronti di Dio. La persona che rifiuta ha già determinato in se stessa di non voler cambiare la posizione presa. Se uno cade non si rialza forse? Domanda il Signore, se uno si svia non torna indietro, perché dunque questo popolo si svia egli di uno sviamento perpetuo? E risponderà egli stesso, essi persistono nella mala fede e rifiutano di convertirsi. 17. Io sono profondamente convinto che le parole conversione e ravvedimento non siano scritte esclusivamente per i non credenti, ma anche per i figli di Dio. Il credente ha bisogno ogni giorno di porsi davanti alla Scrittura e di lasciare a questa l'autorità di convincerlo mediante lo Spirito Santo di peccato. Essere convinto di peccato è un grande dono di Dio per colui che ama ardentemente la santificazione. Rifiutare l'azione dello Spirito è, a mio avviso, la conseguenza di ogni altro peccato. Trovo appropriata questa frase di Pascal: la grandezza dell'uomo sta in questo, che esso ha la coscienza della propria miseria. Una pianta non si conosce miserabile. Conoscere di essere un miserabile è quindi un segno di miseria, ma, in pari tempo, un segno di grandezza. 18. Quindi, giustamente come è scritto, chi odia, rifiuta la riprensione è uno stupido. 19. Rigettantico testamento a Geremia 8:9. Hanno rigettato la parola del Signore. Il termine rigettare fa pensare a qualcuno che riceve qualcosa e poi, per un motivo, lo getta a colui da cui lo ha ricevuto. In senso spirituale indica coloro che hanno ricevuto, il più delle volte senza sperimentare una trasformazione interiore, gli insegnamenti di Dio poi sono tornati ad essere soggetti all'insegnamento del mondo. Non sono pochi coloro che si comportano così, è da chiedersi se oggi non occorra nelle nostre adunanze cambiare qualcosa. Nella primitiva chiesa ai neofiti non veniva permesso di partecipare al battesimo o alla Santa Cena fino a quando non avessero dimostrato con la loro vita la sincerità e la genuinità del loro pentimento dai peccati, ed inoltre di possedere una conoscenza delle verità cristiane sufficiente per mettere la missione nel corpo regolare dei credenti. 20. Per i primi cristiani, benché l'uomo non dovesse in alcun senso sperare di ottenere la salvezza come ricompensa per una vita morale, non poteva d'altro certo ottenerla senza aver vissuto al massimo delle sue possibilità, secondo i principi di morale. 21. Ne dava un'eccellente testimonianza Tertulliano quando scriveva dei pagani e confortava i cristiani, dicendo: «Noi prendiamo a testimoni i vostri stessi processi verbali, di voi che ogni giorno presiedete al giudizio di tanti prigionieri, che terminate i processi con tante condanne, quanti criminali e per quante specie di delitti sono da voi passati in rassegna. In quei vostri verbali, quale sicario, quale borsaiolo, quale sacrilego o corruttore o ladrone delle terme che sia al tempo stesso qualificato cristiano?» Parimenti, dato che i cristiani vi sono deferiti per l'imputazione che deriva dal loro nome, quale è fra loro che sia stato anche accusato dei delitti che a quel nome dovrebbero essere associati? E, sempre dei vostri che rigurgitano le prigioni, nessun cristiano è là, a meno che non vi sia, perché è cristiano, e se è là per qualcos'altro non si tratta di un cristiano. Un cristiano, dice ancora Tertulliano, perde la verginità solo con la propria sposa, un cristiano non concupisce. Un cristiano non insuperbisce mai isolatamente neppure nei confronti del povero. Un cristiano, anche se condannato a morte, rende grazie. La buona fede del cristiano è riconosciuta anche dagli stranieri. Un cristiano non offende neppure il proprio nemico. Conclude poi dicendo: ma si obietterà che, anche fra i nostri, qualcuno ha potuto allontanarsi dalle regole della disciplina. Cessa però di essere da noi considerato cristiano. 22. Non rimane che riflettere davanti a un tale scritto. Trascurantico testamento a Matteo 23:23. Guai a voi, scribi e farisei, perché trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. Come gli scribi e i farisei trascuravano le cose importanti perché erano intenti a portare avanti le proprie idee, così è per coloro che portano avanti a spada tratta concetti biblici irrilevanti, dimenticando che la misericordia e la fede sono molto più importanti. La parola di Dio viene trascurata nelle nostre chiese quando l'insegnamento non viene progressivamente approfondito. Secondo l'Epistola agli Ebrei, sembra che, nella primitiva chiesa, esistesse un insegnamento elementare quale il ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, la dottrina dei battesimi e della imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno, e poi un insegnamento più profondo. 23. Qualcuno ha commentato a proposito: piuttosto sorprendente è la lista delle dottrine indicate dallo scrittore, illustranti semplici insegnamenti elementari e che formano gli unici argomenti su cui si soffermano numerosi. Alcuni, che si limitano soltanto a una o due di queste dottrine, affermano, anzi vantandosene, di predicare il semplice Vangelo. Costoro non si rendono conto che la scelta dei termini rivela la loro immaturità e che il loro gregge non riceve cibo solido, ma solo latte. 24. La parola di Dio è trascurata anche quando il nostro insegnamento non è completo. Per esempio, un'eccessiva esortazione a ricevere Gesù come personale salvatore per avere la salvezza può andare a discapito alla necessità delle opere che il cristiano deve fare come conseguenza della salvezza. 25. Obiettivamente qualcuno ha detto: mentre la Chiesa di Roma fa naufragio confondendo legge e Vangelo, la Chiesa evangelica è esposta al pericolo di separare la legge dal Vangelo. Il primo mette gli uomini nella condizione di salvarsi con le loro opere, il secondo porta gli uomini a pensare che essi possono essere salvati vivendo nei loro peccati. 26. Ogni chiesa, quindi, dovrebbe avere come obiettivo un sistema di insegnamento che spieghi tutte le verità cristiane. D.I.M.E. Nuovo Testamento I.C. Antico Testamento A. Osea 4, 6. Tu hai dimenticata la legge del tuo Dio. Dimenticare, per la mente umana, è naturale, a volte necessario. Dio non rimprovera il suo popolo, perché ha poca memoria, ma perché, amando il peccato, è intento a compiere il male. Dimentichiamo la parola di Dio quando abbiamo l'animo, cioè il cuore, occupato delle cose di questa terra anziché di quelle celesti che non si vedono. 27. Tutte le volte che uno legge o sente la parola del regno e non le intende, è perché il maligno la porta via. 28. E qui gran parte della responsabilità è dell'uomo. Quanti messaggi, quanti studi uditi e dimenticati perché ascoltati con poco impegno. Davanti a Dio ognuno di noi renderà conto non solo di quello che ha fatto, ma anche di quello che ha dimenticato per negligenza. Dio non si può beffare. A chiunque ha, sarà dato, e sarà nell'abbondanza. Ma a chiunque non ha, sarà tolto anche quello che ha. 29. Quindi, secondo questo principio, colui che non si impegna a leggere o ad ascoltare per ritenere, prima o poi si troverà a dimenticare, cioè a non avere, quello che all'inizio Dio gli aveva affidato. Mettersi a studiare, ha detto S. Agostino, è cominciare a comprendere una dottrina, possederla è un termine. 30. Non diamo quindi colpa alla memoria, ma, come doveva fare il popolo di Dio, esaminiamo il nostro cuore per vedere se amiamo Dio e la sua parola. Non creduta? Ebrei 4:12. La parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Quest'ultimo punto è in pratica la radice di tutti gli altri errori. La fede è essenziale non solo per la salvezza, ma anche per continuare a vivere una vita cristiana. Senza fede è impossibile, non improbabile, piacere a Dio. Se la parola di Dio non ci insegna, non ci riprende, non ci corregge e non ci educa alla giustizia, 31. È perché per la fede non l'assimiliamo, cioè non gli permettiamo di essere assorbita dalla nostra vita. Personalmente devo confessare che se manco in tante cose, il più delle volte, non è perché conosco poco, ma perché non credo che il metodo di Dio sia il migliore. E questo è uno dei maggiori peccati, perché pur avendo conoscenza non ho il coraggio di abbandonarmi alla volontà di Dio. A volte vorrei una spiegazione, una risposta immediata, ma tutto questo non rientra sempre nei piani di Dio. Dice giustamente Tom Kitwood, se ogni problema che ci concerne profondamente ha una risposta chiara e precisa e completamente convincente, che può essere trovata in una certa pagina di una enciclopedia teologica, che necessità ci è per la fede? Il cristianesimo così trattato corre sempre il rischio di non diventare che un altro facile sistema razionalistico, in cui Dio è solo l'idea chiave. Un sistema insufficiente alle esigenze dell'umanità, tanto quanto lo è lo stesso umanesimo razionale. 32. Manchiamo di fede quando sappiamo che Dio ha cura di noi. 33. E siamo con ansietà solleciti della vita. Quando sappiamo che Dio ha perdonato tutti i nostri falli e noi non perdoniamo i fratelli. Quando sappiamo che Gesù ha vinto il male con il bene e noi non facciamo altrettanto. 34. L'elenco sarebbe molto lungo. Il problema dei cristiani del XX secolo, compreso il sottoscritto, è di realizzare per fede ciò che, per lo Spirito Santo, l'Eterno, il nostro Dio, ci ha rivelato. Concludendo queste considerazioni mi ritorna in mente una domanda di Dio. Molta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà? 35. Gesù disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola. 36. Si può osservare la parola di Dio senza amare il Signore, ma non si può amare Dio senza osservare ciò che Egli ha comandato. Quindi il nostro compito è quello di apprezzare la parola di Dio come uno dei più grandi doni che Dio ci ha fatto, studiandola e praticandola finché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. 37:20. In difesa della fede, Hamilton Pagg, 154:21. In difesa della fede, Hamilton Pagg, 159:22. Apologia del cristiano Pagg, 113-117. 23. Ebrei 6:1-2:24. Note sull'epistola agli ebrei, C.R. Erdmann Pagg. 25. Tito 3:8. 26. Fede viva. Gennaio 1977. Pagg. 30. 27. Colossesi 3:2. 28. Matteo 13:19. 29. Matteo 13:12. 30. Città di Dio Pagg. 382. 31. 2 Timoteo 3:16. 32. Checos è umano Pagg. 170. 33. 1 Pietro 5:7. 34. Romani mezzogiorno e 21. 35. Proverbi 20:26. 36. Giovanni 14:23. 37. Efesini 4:14-15. 1. Romani 7:12. 2. Ecclesiaste 7:29. 3. Giovanni mezzogiorno e 48. 4. Salmo 86:11. 5. 2 Timoteo 2:1/4. 6. Isaia 65:2. 7. Abolizione della religione Pagg. 18. 8. 2 Corinzi 2:17. 9. Gerem. 8. 8. 10. Pensieri, E2, Mondadori Pagg, 226. 11. Città di Dio, E2, Paoline Pagg, 288. 12. Abolizione della religione Pagg, 39. 13. Essere cristiani Pagg. 13. 14. Idea, gennaio 1979, Pagg. 6. 15. Abolizione della religione Pagg. 20:16. Abolizione della religione Pagg. 87. 17. Geremia 8. 18. Pensieri Pagg. 127. 19. Proverbi 12:1. Aprile 1979.